Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. La vigilia di Natale del 1918 ritornai a casa. Segnava le 11 l'orologio della stazione Ovest. Percorsi la Maria Hilfe Strasse. Una pioggia granulosa, neve mancata e sorella stentata della grandine, cadeva a strisce oblique dal cielo ostile. Il mio berretto era nudo, gli avevano staccato la rosetta. Il mio colletto era nudo, gli avevano staccato le stellette. Io stesso ero nudo. Le pietre erano nude, i muri e i tetti. Nudi erano i rari lampioni. La pioggia granulosa batteva sul loro vetro opaco come se il cielo gettasse manciate di ghiaia contro povere grosse biglie. I mantelli delle sentinelle davanti agli edifici pubblici ondeggiavano al vento e le falde si gonfiavano, nonostante l'umidità. Le baionette inastate non sembravano affatto reali. I fucili pendevano mezzo di traverso dalle spalle dei soldati. Era come se volessero mettersi a dormire i fucili, stanchi come noi di 4 anni di sparatorie. Non ero affatto sorpreso che i soldati non mi facessero il saluto. Il mio berretto nudo, il colletto nudo del mio giubbotto non imponevano obblighi a nessuno. Non mi ribellavo. Era solo doloroso. Era la fine. Pensai al vecchio sogno di mio padre, quello di una triplice monarchia, e che egli mi aveva destinato a realizzare un giorno il suo sogno. Mio padre era sepolto nel cimitero di Itzing e l'imperatore Francesco Giuseppe, del quale egli era stato fedele disertore, nella cripta dei Cappuccini. Io ero l'erede e la pioggia granulosa cadeva su di me e io emigravo nella casa di mio padre e di mia madre. Feci una deviazione. Passai dalla cripta dei Cappuccini. Anche lì davanti una sentinella andava su e giù. Che cosa doveva sorvegliare ancora? I sarcofaghi? La memoria? La storia? Io, un erede, restai qualche momento fermo davanti alla chiesa. La sentinella non si curò di me. Mi levai il berretto. Poi proseguii verso la casa paterna, di casa in casa. Viveva ancora mia madre. Durante il viaggio le avevo annunciato 2 volte il mio arrivo. Affrettai il passo. Viveva ancora mia madre. Ero davanti alla nostra casa. Suonai. Passò del tempo. La nostra vecchia portiera aprì il portone. «Signora Fanny!» gridai. Mi riconobbe subito alla voce. La candela ondeggiò. La mano ebbe un tremito. «È atteso! Noi l'attendavamo, signorino!» È più di una notte che non dormiamo noi due, nemmeno la signora, su. In effetti, era vestita come in passato l'avevo vista solo la domenica mattina, mai di sera, dopo l'ora di chiusura. Feci gli scalini a due. Mia madre stava in piedi, accanto alla sua vecchia poltrona a braccioli, col suo vestito nero accollato, i capelli d'argento pettinati alti sulla fronte. Dietro, sopra le 2 trecce avvolte, spuntava il largo bordo arcuato del pettine, grigio come i capelli. Intorno al colletto e alle strette maniche giravano le familiari, sottili orlature bianche. Levò in aria il vecchio bastone con impugnatura d'argento, un'invocazione. Verso il cielo lo sollevò, come se il suo braccio non fosse lungo abbastanza per un grazie così immenso. Non si mosse. Mi aspettava. E la sua immobilità mi parve quasi un incedere. Si chinò su di me. Non mi baciò neppure sulla fronte. Mi sollevò il mento con 2 dita, di modo che io alzassi il viso. E per la prima volta vidi che era tanto più alta di me. Mi fissò a lungo. Poi accadde qualcosa di inverosimile, anzi di inquietante, di incomprensibile per me, quasi soprannaturale. Mia madre mi prese la mano, si piegò un poco e la baciò 2 volte. Sconcertato, mi levai in fretta il cappotto. Anche la giacca, disse, è tutta bagnata. Mi levai anche il giubbotto. Mia madre si accorse che la manica destra della mia camicia aveva un lungo strappo. Togliti la camicia, te la rammendo, disse. No, supplicai, non è pulita. Mai e poi mai avrei potuto dire in casa nostra che qualcosa era sudicio o sporco. Come aveva fatto presto a rinascere questo linguaggio rituale. Ora ero davvero a casa. Non dicevo nulla. Guardavo solo mia madre e mangiavo e bevevo quello che aveva preparato per me, procurandoselo certamente con mille astuzie. Tutte cose che allora non c'erano per nessuno a Vienna. Mandorle salate, vero pane di frumento, due steche di cioccolata, una boccetta di cognac e vero caffè. Si sedette al pianoforte. Era aperto. Doveva averlo lasciato così da alcuni giorni, dal giorno in cui le avevo annunciato il mio arrivo. Probabilmente voleva suonarmi Chopin. Sapeva che la mia predilezione per lui era una delle poche passioni che avevo ereditato da mio padre. Dalle grosse candele gialle, mezzo consumate nei candelieri di bronzo del pianoforte, mi accorsi che per anni mia madre non aveva più toccato i tasti. In genere era solita suonare ogni sera, e solo di sera, e solo al lume di candela. Erano ancora le buone candele d'altri tempi, grosse e quasi sugose. Durante la guerra di sicuro non ce n'erano più state come queste. Mia madre mi chiese i fiammiferi. Era una brutta scatola tozza, stava sulla mensola del caminetto, scura e volgare com'era, là, accanto alla piccola pendola col delicato volto di fanciulla, era estranea a quell'ambiente, un'intrusa. Erano zolfanelli. Bisognava aspettare che la loro fiammella azzurra si mutasse in una fiammella sana, normale. Anche il loro odore era un intruso. Nel nostro salone Era sempre regnato un profumo ben preciso, misto dell'alito di lontane violette già prossime a sfiorire e dell'aroma acre di caffè forte appena fatto. Che c'entrava lo zolfo? Mia madre posò le care vecchie mani bianche sui tasti. Io mi chinavo accanto a lei. Le sue dita scivolarono sui tasti, ma dallo strumento non venne alcun suono. Era ammutolito, morto. Non capivo. Doveva essere uno strano fenomeno. Di fisica non sapevo nulla. Premetti io stesso alcuni tasti, non risposero. Era qualcosa di spettrale. Incuriosito, alzai il coperchio del pianoforte. Lo strumento era vuoto. Mancavano le corde. «Ma è vuoto, mamma», dissi. Lei chinò la testa. «Me ne ero completamente dimenticata», cominciò con un filo di voce. «Un paio di giorni dopo la tua partenza mi venne una strana idea. Volevo costringermi a non suonare. Ho fatto levare le corde. Non so che cosa mi sia passato per la testa allora. Davvero non lo so più. Fu un momento di smarrimento, forse addirittura un disturbo mentale. Mi è tornato alla mente solo ora». La mamma mi guardava. C'erano lacrime nei suoi occhi. Quel genere di lacrime che non riescono a scorrere e che sono come acque stagnanti. Buttai le braccia al collo della vecchia signora. Lei mi accarezzava la testa. «Guarda qui quanta fuligine hai ancora fra i capelli», disse. Lo ripetei un paio di volte di seguito. «Guarda qui quanta fuligine hai ancora fra i capelli. Va a lavarti». «Prima di coricarmi», pregai. «Non voglio andare a letto ancora», dissi come un tempo da bambino. «E lasciami stare un altro po' qui, mamma». Ci sedemmo al piccolo tavolino davanti al caminetto. «Nel rassettare ho trovato le tue sigarette, due scatole di egiziane, quelle che tu fumavi sempre. Le ho avvolte in fogli di carta assorbente umida, sono ancora freschissime. Vuoi fumare? Sono sulla finestra». «Sì, erano le vecchie confezioni da 100. Esaminai le scatole per tutti i versi. Sul coperchio di una c'era scritto di mio pugno, ancora decifrabile, il nome Friedel Reichner. Hohenstaufengas. Mi rammentai subito. Era il nome di una graziosa tabaccaia dalla quale evidentemente avevo comprato quelle sigarette. La vecchia signora sorrise. «Chi è?» chiese. «Una deliziosa ragazza, mamma. Non sono mai più andata a trovarla». «Ora sei diventato troppo vecchio», replicò, «per sedurre delle tabaccaie. E d'altra parte queste sigarette non esistono più». Era la prima volta che sentivo mia madre azzardare qualcosa di simile a una battuta spiritosa. Thank you. Per un po' ci fu di nuovo silenzio. Poi mia madre chiese: «Hai molto sofferto, ragazzo?» «Non molto, mamma.» «Avevi molta nostalgia della tua Elizabeth?» Non disse di tua moglie, ma della tua Elizabeth, e calcò la voce sul tua. «No, mamma.» «L'ami ancora?» «È passato troppo tempo, mamma.» «Non chiedi di lei?» «Stavo appunto per farlo.» «L'ho vista di rado», disse mia madre. «Tuo suocero più spesso. L'ultima volta è stato qui 2 mesi fa, molto afflitto e non di meno pieno di speranze. Con la guerra ha fatto i soldi. Che tu eri prigioniero l'hanno saputo. Credo che avrebbero preferito vederti nella lista dei caduti o fra i dispersi. Elizabeth...» «Posso immaginarmelo», la interruppi. «No, non puoi immaginartelo», insistette mia madre. «Indovina che cosa si è messa a fare.» Sospettai il peggio, o quello che agli occhi di mia madre poteva essere il peggio. «La ballerina?» chiesi. Mia madre scosse seria la testa. Poi disse con aria triste, lugubre quasi: «No, fa dell'arte applicata. Sai che cos'è? Disegna, o forse intaglia addirittura, assurde collane e anelli, quegli aggeggi moderni, sai, tutti spigoli, e fermagli di legno d'abete. Credo anche che sappia fare tappeti di paglia. L'ultima volta che è stata qui mi ha tenuto una conferenza sull'arte africana, credo, come un professore. Una volta poi, senza chiedere il permesso, mi ha portato un'amica. Era...» Mia madre esitò un momento, infine si decise a dire: «Era una donnaccia, coi capelli corti.» «Tutto ciò è così grave?» dissi. «Peggio che grave, ragazzo. Quando di roba che non vale nulla si comincia a fare qualcosa che ha l'aria di valere molto, dove andremo a finire? Gli africani portano addosso conchiglie, ma questo è tutto un altro discorso. Se si vuole imbrogliare, allora d'accordo. Ma per di più, questa gente dell'imbroglio si fa anche un merito, figliolo. Capisci? Non mi si vorrà dare ad intendere che il cotone è tela di lino e che le corone d'alloro si fanno con le pigne.» Mia madre pronunciò tutto il discorso molto lentamente, con la sua consueta voce pacata. Era rossa in viso. «Avresti preferito una ballerina?» Mia madre rifletté un po', poi disse con mio immenso stupore: «Certo, ragazzo. Non vorrei avere per figlia una ballerina, ma una ballerina è leale. E d'altra parte i costumi rilassati sono una cosa chiara. Non c'è inganno, non c'è imbroglio. Con una ballerina, penso, uno come te ha una relazione. Ma l'arte applicata, si tratta di sposarla. Non capisci, ragazzo? Quando ti sarai rimesso dalla guerra, vedrai coi tuoi occhi. In ogni caso, domani mattina devi andare a trovare la tua Elizabeth. E dove andrete ad abitare? E che ne sarà mai della vostra vita? Lei abita in casa di suo padre. A che ora vuoi essere svegliato domani?» «Non so, mamma.» «Io faccio colazione alle 8, disse. «Allora alle 7, mamma, per favore. Va a dormire, ragazzo. Buonanotte.» Io le baciai la mano. Lei mi baciò sulla fronte. Sì, questa era mia madre. Thank you. Era come se non fosse successo nulla, come se io non fossi appena tornato dalla guerra, come se il mondo non fosse un cumulo di macerie, come se la monarchia non fosse annientata e ancora esistesse la nostra vecchia patria con le sue molteplici, incomprensibili, ma immutabili leggi, i suoi usi, costumi, inclinazioni, abitudini, vizi e virtù. In casa di mia madre ci si alzava alle 7, anche se non si dormiva da 4 notti. Io ero arrivato verso mezzanotte. Ora il vecchio orologio del caminetto, con lo stanco, delicato volto di fanciulla, batteva le 3. 3 ore di tenerezze bastavano a mia madre. Ma le bastavano? Comunque, non si concesse un quarto d'ora di più. Mia madre aveva ragione. Io mi addormentai subito, con la confortante consapevolezza che ero a casa. Nel bel mezzo di una patria distrutta, mi addormentavo in una fortezza. La mia vecchia mamma, col suo vecchio bastone nero, teneva lontano il disordine. Non avevo ancora alcun timore della nuova vita che mi aspettava. Come oggi in giorno si dice, ancora non la realizzavo. Mi attaccavo invece ai piccoli obblighi che di ora in ora mi erano imposti e assomigliavo pressappoco a un uomo che, posto dinanzi a un'imponente scalinata che egli è costretto a salire, ritiene il primo gradino quello più pericoloso. Non avevamo più un domestico, solo una donna di servizio. Il vecchio portinaio faceva per noi le veci del domestico. Verso le 9 di mattina lo mandai da mia moglie con dei fiori e una lettera. Annunciavo la mia visita per le 11, come ritenevo che si convenisse. Feci toeletta, come ancora si usava dire ai miei tempi. I miei abiti civili erano intatti. Mi incamminai a piedi. Arrivai alle 11:15 e aspettai nel caffè di fronte. Alle 11, puntuale, suonai il campanello. «I signori non sono in casa», mi fu detto. Fiori e lettera erano stati consegnati. Elizabeth aveva lasciato detto che potevo andare a trovarla subito, al suo studio nella Volzaile. Mi recai dunque nella Volzaile.